Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Via dagli stadi responsabili degli insulti antisemiti, dice Minniti dopo le figurine con il voto di Anna Frank. Lotito in visita alla sinagoga. Aumenta di 5 mesi l'aspettativa di vita. Nel 2019 in pensione a 67 anni. Padoan, l'economia potrebbe crescere fino al 2% quest'anno. Veneto, scontro su Zaia che vuole l'autonomia speciale. Maroni, lo sostengo. Sala dice, fa un discorso pericolosissimo. Il vento non basta, l'aria resta sporca per la Lombardia. Si va verso nuove limitazioni alla circolazione e venerdì sciopero dei mezzi. Legge elettorale, si va verso la fiducia anche al Senato. Pronta la nuova protesta di piazza delle opposizioni. Una buona giornata e bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono Simone Spezia, dall'altra parte del vetro Laura Faggini in assistenza e redazione, Roberta Frisani in regia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24. Andiamo in diretta video da là, quindi se ci volete vedere ci trovate anche là e potete scriverci e commentare anche durante la diretta, proprio sulla nostra pagina Facebook. Veniamo alla vicenda in apertura dei tifosi della Lazio che hanno distribuito, come ormai saprete, delle figurine con insulti antisemiti indirizzate ai tifosi della Roma. Il presidente della Lazio Lotito va in visita alla sinagoga ma non trova rappresentanti della comunità ebraica. Alessandra Schepisi si trova là. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno. La deposizione di una corona di fiori bianchi e celesti sotto la lapide commemorativa delle vittime dei deportati di Roma davanti al portone d'ingresso della sinagoga. La delegazione guidata dal presidente Lotito, come hai detto tu, non è entrata nel tempio né è stata ricevuta dai rappresentanti della comunità ebraica romana. Una visita davvero largo non concordata, spiegano fonti della comunità che sembra aver accolto con una certa freddezza l'iniziativa. La società ha sempre represso certi fenomeni, ha detto Lotito, accolto da un arresto di giornalisti e telecamere. Con questo gesto vogliamo ribadire la nostra posizione, annunciare un'iniziativa. Ogni anno 200 ragazzi tifosi laziali faranno visita ad Auschwitz. Sentiamolo. Proprio per mettere nella condizione i ragazzi di capire di che cosa stiamo parlando, perché le persone probabilmente dimenticano, giocano su alcuni fatti che non devono essere dimenticati, sui quali non si può giocare, non esiste uno sfottò, non esiste nulla di questo. Devono essere assolutamente rimanere nella memoria e devono costruire un monito per tutti per evitare che ciò si possano ripetere. Lotito ha poi respinto ogni tentativo di denigrazione, strumentalizzazione, ha parlato di un episodio imputabile a pochi sconsiderati o peggio a chi vuole danneggiare la società in un momento in cui sta ottenendo dei successi sportivi. Stupiti da questo clamore invece si sono detti gli irriducibili della Lazio che in un comunicato hanno detto si è trattato di un contesto di goliardia. E tutto questo mentre si moltiplicano le reazioni di condanna, dopo la CEI ha parlato di vergogna, Mattarella di episodio disumano e allarmante, il capo dello Stato che poi ha sentito il ministro dell'interno Minniti, il quale ha assicurato l'impegno per individuare il responsabile affinché vengano perseguiti e definitivamente esclusi dagli stadi. Ricordiamo che poi sono in corso delle indagini, è stata depositata un'informativa della Digos in procura, mentre è stata aperta un'inchiesta della FIGC. Ed Roma è tutto. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento dalla sinagoga, poi più avanti torneremo a parlarne col vicepresidente della comunità ebraica romana. Siamo alle vicende di Banca Italia, il Movimento 5 Stelle MDP contro la Boschi. La Boschi chiede un confronto pubblico proprio con Di Maio. A tra poco, sentiamo. Il termine ultimo resta quello del 31 ottobre, quando l'atto finale dell'iter di nomina sarà la firma del Presidente della Repubblica Mattarella. Passaggio decisivo sarà però venerdì in Consiglio dei Ministri, sarà infatti il Governo a deliberare sulla conferma o meno di Visco alla guida di Via Nazionale. Alla riunione a Palazzo Chigi parteciperà Maria Elena Boschi, la conferma arriva dall'esecutivo che chiude così il nuovo fronte dello scontro aperto da MDP. Un'interrogazione di Scotto al Premier Gentiloni chiedeva infatti che la sottosegretaria alla Presidenza non partecipasse alla riunione sull'istituto, per perché su di lei grava un pesante conflitto di interessi. All'attacco anche il leader dei 5 Stelle Di Maio, che accusa Renzi e Boschi di essere gli aguzzini dei correntisti italiani. Fanno lo show contro Visco per far vedere che tutelano i risparmiatori, ma li hanno massacrati. Di Maio parla di cose che non conosce o non capisce, replica però la Boschi: io non avevo e non ho nessuna banca, mio padre è stato mandato a casa come tutti, ora basta bugie, sono pronta a un dibattito televisivo. È in questo clima dunque che maturerà nelle prossime ore la scelta del nuovo governatore sull'asse Palazzo Chigi-Quirinale. Non ci dovrebbe essere alcuna accelerazione sui tempi per una scelta che, secondo indiscrezioni, sarebbe quella della continuità. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Restiamo sul confine tra politica ed economia con le cronache di oggi dalla manovra e anche le dichiarazioni del ministro Padoan. L'economia italiana può accelerare e crescere fino al 2%, superando così l'ultima stima del governo che fissa l'aumento del PIL per l'anno in corso all'1,5%. A mostrare ottimismo è il ministro dell'economia. Piercarlo Padoan ritiene infatti possibile che la ripresa in atto possa guadagnare ulteriore slancio e aiutare così il governo anche nella riduzione del debito pubblico. Il governo intanto è ancora al lavoro sulla manovra approvata salvo intese dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana. Secondo una nuova bozza in circolazione in queste ore, la legge di bilancio 2018 destina maggiori risorse al rinnovo del contratto degli statali 2016-2018. Ci saranno così complessivamente 2,9 miliardi per garantire aumenti medi mensili di 85 euro. Previsti anche sconti fiscali del 19% sulle polizze assicurative contro le calamità naturali, una stretta contro la fuga degli utili aziendali all'estero e un bonus per i vivai under 21 delle società calcistiche di serie A, B e C. In arrivo anche detrazioni fiscali per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Il testo definitivo della manovra dovrebbe approdare in Parlamento dopo il voto sulla legge elettorale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto c'è il fronte pensioni, era atteso ed è arrivato il dato dell'Istat sull'aspettativa di vita, quello sul quale poi si calcola l'età nella quale si va in pensione. Sentiamo. La speranza di vita alla nascita si allunga e nel 2016 si attesta a 82,8 anni, 7 mesi in più rispetto al 2013. Per i 65enni l'aspettativa arriva a 20,7 anni, 5 mesi in più sempre dal 2013. E quanto mostrano i molto attesi dati dell'Istat dai quali dipende l'età pensionabile? Nel 2015 c'è stato un calo dell'aspettativa di vita, poi recuperato, quindi in base alle norme attuali l'età pensionabile salirebbe a 67 anni dal 2019, una novità contestata dai sindacati che chiedono una deroga almeno per le donne, per le quali, come sempre, la speranza di vita alla nascita è più elevata, 85 anni rispetto agli 80,6 degli uomini, differenza che si riduce con l'età. In sostanza, per andare in pensione in anticipo, dal 2019 saranno necessari 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini, 42 anni e 3 mesi per le donne. Al momento servono rispettivamente 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla politica vera e propria, a partire dalla legge elettorale che approda in Senato. È probabile anche qua il ricorso alla fiducia ed è prevedibile un'ampia protesta delle opposizioni. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Rosatello. Approda oggi in aula al Senato ed è probabile ricorso al voto di fiducia contestata da MDP, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle. Si parla di 5 fiducie, una per ogni articolo della legge, per blindare il testo ed evitare i voti segreti. Roberto Speranza di MDP auspica ancora che non vi si arrivi, anzi che si permetta al Senato di discutere, aprendo ad alcune modifiche, assicura Roberto Speranza, c'è l'opportunità di andare avanti nel dialogo a sinistra. Ma per il PD invece non c'è più tempo. La discussione si è aperta in aula a Palazzo Madama sulle questioni pregiudiziali, 4 in tutto. Le votazioni però ci saranno oggi pomeriggio e sono previste varie manifestazioni contro. Oggi alle 16 appuntamento davanti a Palazzo Madama con la sinistra, domani sarà la volta dei 5 Stelle, il blog di Beppe Grillo dà già l'appuntamento per protestare contro quella che chiama una porcata immensa per fare fuori il movimento. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Siamo adesso al giorno dopo il referendum per l'autonomia, o meglio il giorno dopo i risultati. Il Presidente del Consiglio Gentiloni in visita in Veneto mentre si dibatte sull'autonomia speciale. Dopo il referendum e dopo la fuga in avanti di Luca Zaia, il governo rinnova l'apertura al confronto, ma delinea un tracciato preciso. Si discute di come far funzionare meglio l'Italia, non si discute dell'Italia. È dalla capitale del Veneto, come è chiamata Venezia da quelle parti, che il premier Paolo Gentiloni rinnova rispetto, interesse e disponibilità ad una discussione sulla richiesta di maggiore autonomia espressa dalle urne. Il governo è pronto a un confronto di merito. Alcune funzioni possono essere rese più efficienti, probabili, e discuterne è utile per il Paese. Sarà una discussione complessa, ma siamo pronti, ovviamente nei limiti fissati dalle nostre leggi e dalla nostra Costituzione. È esclusivamente nel solco della Costituzione, dunque, che tutto il negoziato dovrà avvenire, con fine preciso e invalicabile, rievocato dal Premier anche per stoppare la richiesta di un Veneto a statuto speciale. Richiesta pericolosissima, a detta del sindaco di Milano, Beppe Sala, che condivide invece la distanza presa dal governatore lombardo rispetto alle istanze più secessioniste di Zaia. Portiamo oggi in Consiglio regionale la nostra risoluzione, ricorda Roberto Maroni, che conferma l'intenzione di andare nel giro di 2-3 settimane al confronto con Palazzo Chigi, un cammino che sta alterando gli equilibri interni alla Lega e al centrodestra, col leader del Carroccio che prova a sminuire. C'è una sola Lega, dice Matteo Salvini, stiamo lavorando già anche per Puglia, Piemonte, Abruzzo e Emilia Romagna. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a questo è dedicata l'analisi del martedì di Daniele Biacchessi. Fino a pochi giorni prima del referendum sull'autonomia in Lombardia e Veneto, il protagonista indiscusso nel centrodestra pareva essere Silvio Berlusconi, la cui manovra in tema di legge elettorale aveva certamente offuscato l'immagine pubblica della Lega. Nel weekend il successo del referendum voluto dal governatore Zaia in Veneto, che ha superato di gran lunga il quorum e le trattative avviate dal presidente della regione Lombardia Maroni con il governo, muovono gli equilibri storici del centrodestra e mettono la Lega al centro della coalizione. In sostanza i governatori di Veneto e Lombardia e il leader della Lega Salvini riprendono il comando delle operazioni in vista dell'avvio della campagna elettorale per le elezioni politiche di primavera. Ma attenzione! Mentre Zaia è in linea con il segretario Salvini, può vantare un pieno appoggio di un elettorato vasto e trasversale, il risultato ottenuto in Lombardia, 38.33% degli aventi diritto, e la polemica sul costo e l'utilizzo del tablet nel voto elettronico rende Maroni oggettivamente debole sul piano politico, con buona pace di Berlusconi. E adesso andiamo a sentire, a parlare un po' di qualità dell'aria, aria che evidentemente tra un po' di pioggia, un po' di vento, non è migliorata abbastanza. Guido Lanzani, responsabile qualità dell'aria di ARPA Lombardia. Lanzani, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Beh, qualcosina il vento l'avrà fatta, no? Sì, in realtà con la giornata di ieri abbiamo visto una diminuzione delle polveri estesa ormai a tutta la Lombardia e ormai abbiamo proprio avuto un ricambio della massa d'aria, per cui le concentrazioni sono inferiori ai 25 microgrammi al metro cubo in tutte le stazioni. A Milano siamo intorno ai 12 microgrammi, quindi decisamente sotto. Beh, 50. Addirittura 12, praticamente perfetto. Che cosa si prevede per i prossimi giorni? Nella giornata odierna ancora una situazione intermedia, poi purtroppo però le condizioni torneranno stabili, per cui probabilmente le concentrazioni torneranno gradualmente a crescere. Grazie a Guido Lanzani, responsabile di qualità dell'aria di ARPA Lombardia. Marco Deserti, che riveste lo stesso ruolo in Emilia Romagna. Buongiorno Deserti, benvenuto. Buongiorno. No, qualità audio decisamente migliore. Come vanno le cose invece dal punto di vista della qualità dell'aria? Beh, la situazione è abbastanza simile a quella della Lombardia. I valori che ancora l'altro giorno erano superiori ai 100 in alcune regioni, comunque attorno agli 80-90 microgrammi su metro cubo in gran parte della regione, ad esclusione della parte orientale della pianura, ieri sono decisamente diminuiti. E quindi abbiamo valori che oscillano fra i 9 e i 15 microgrammi su metro cubo in pressoché tutte le stazioni della regione. Questo fenomeno è stato favorito da un primo fenomeno di ventilazione da est, sì, che ha ripulito la parte orientale della nostra pianura, della nostra regione, nella giornata di domenica. Poi nella giornata di lunedì c'è stato un vento da nord, vento di fen alpino, che ha ripulito completamente la pianura padana. Ottimo. Questo allora... vento persiste anche da per oggi e quindi anche noi ci aspettiamo valori ancora bassi per oggi e un progressivo aumento per i giorni successivi. Ottimo, ottimo. Si respira in pianura padana. Evidentemente avevamo letto qualcosa di sbagliato in giro, come avete sentito dai titoli. Quindi ci correggiamo subito. Dal territorio ci dicono che l'aria è tornata pulita. Grazie anche a Marco Deserti, responsabile qualità dell'aria dell'Emilia Romagna. Mentre arrivano notizie che... la Lazio domani a Bologna giocherà con una maglia dedicata ad Anna Frank. Noi andiamo invece sul calcio giocato, che inizia stasera e prosegue domani, perché siamo a turno infrasettimanale di campionato, con Carlo Genta. Ciao Carlo, eccoci. Ciao Simone, buongiorno. Allora, vai. Allora, questa sera, poi gli interessi faranno gli scongiuri che vogliono, però potremmo avere verso le 11 l'Inter in testa alla classifica. Affronta la Sampdoria in casa, è un Inter in eccellenti condizioni, come ha detto la partita di sabato sera a San Paolo, e quindi io credo che l'Inter non si lascerà sfuggire questa occasione. Poi domani, ovviamente, tutte le altre per un turno infrasettimanale che in realtà non offre grandi sfide, perché turno interlocutorio con Genoa-Napoli, con Juventus-Pal, con Roma-Crotone. È chiaro che il sorvegliato speciale sarà il Milan, sbonucciato, senza Bonucci, fermato per due turni di squalifica, che gioca a Verona con il Chievo, una partita che è chiaro deve vincere, perché poi nel weekend ci sarà la partita con la Juventus, decisamente di altro livello per i rossoneri, che ricordiamo sono reduci da tre sconfitte e un pareggio. Se perde col Chievo salta Montella, secondo te? Siamo qui con il tormentone. Dura da dire. Io credo che, insomma, dovesse fare altre due sconfitte questa settimana, a quel punto, nonostante le ripetute conferme da parte della società, diventerebbe un po' indifendibile. Grazie, grazie a Carlo Genta. Lo ritroviamo alle 14 in tutti i convocati. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Ci ritroviamo subito dopo. Iniziamo il nostro Giro d'Italia. Parleremo, tra le altre cose, della perquisizione avvenuta ieri su una nave di Save the Children sulla questione dei migranti. Poi andremo a parlare con un rappresentante della comunità ebraica a proposito di questa vicenda della Lazio, alla quale accennavamo poco fa, e anche alle dichiarazioni poco fa del presidente della Lazio Lotito, e parleremo anche del perché non c'erano rappresentanti della comunità ebraica oggi. Torneremo ad occuparci anche, l'assonanza, delle occupazioni di case abusive a Roma, perché sta proseguendo un processo, è un processo del quale ci siamo già occupati nei confronti dei cosiddetti movimenti per la casa, e alcuni di questi rappresentanti di questi movimenti sono accusati addirittura di estorsione. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, e 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo anche in diretta video, e dall'altra parte del vetro chissà Roberta Frisani e Laura Faggin che di cosa stanno ridendo e su cosa stanno complottando. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della questione della Lazio e delle immagini con Anna Frank distribuite allo stadio, ci torneremo tra poco. Abbiamo parlato dell'aumento dell'aspettativa di vita e quindi del fatto che nel 2019 si andrà in pensione a 67 anni, dello scontro su Zaia che chiede l'autonomia speciale, e dell'aria che finalmente si ripulisce quantomeno nella pianura padana, ma anche di legge elettorale e di calcio giocato. Riprendiamo dunque dalla questione che sta un po' animando il dibattito calcistico, e non solamente il dibattito calcistico, ed è la vicenda della distribuzione di queste figurine, per così dire, delle immaginette con la foto di Anna Frank. Lo dico all'ascoltatore che ci dice il 90% degli italiani non sa nemmeno chi sia Anna Frank. Mi sembra curioso, perché lo studiamo tutti quanti a scuola, però Anna Frank fu una deportata tedesca che fu catturata in Olanda e che morì in un campo di concentramento a 16 anni, e che scrisse un diario che appunto tutti quanti, almeno in piccola parte, abbiamo studiato a scuola, perché appunto è un racconto di questa vita in clandestinità e non solo di questa, ed è un simbolo della Shoah, Anna Frank. Vengono distribuite queste figurine con il volto di Anna Frank sopra la maglia di sopra una maglia della Roma, con scritto romanista ebreo. Siamo in linea con Rube Della Rocca, che è vicepresidente della comunità ebraica di Roma. Della Rocca, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi e buongiorno ai nostri ascoltatori. Il presidente della Lazio, Lotito, oggi ha fatto visita alla sinagoga, è venuto là, ha detto tra le altre cose che la Lazio giocherà con una maglia che ricordi in qualche modo Anna Frank nella giornata di domani, nella partita contro il Bologna. Si è presentato in sinagoga. Della Rocca, ci chiarisce innanzitutto, perché poi sia le agenzie di stampa che i giornali stanno un po' mettendo in evidenza questa cosa, non c'era nessuno della comunità ebraica là per l'arrivo di Lotito? Ah, guardi, non c'era nessuno a livello istituzionale, semplicemente perché è un bel gesto che accogliamo ovviamente con il piacere del bel gesto, ma fine a se stesso, per il semplice fatto che ci aspettiamo delle iniziative dal mondo del calcio e dal mondo non solo del calcio, ma da quello politico istituzionale, delle iniziative finalmente serie per debellare, serie ed incisive, per debellare il fenomeno non solo dell'antisemitismo, vi permetta, ma qui negli stadi stiamo vivendo una situazione dove un giocatore di colore non può toccare il pallone serenamente, che viene fischiato con i bu odiosi. Il Napoli non può andare in giro per l'Italia se non insultato in quanto esponenti della napoletanità. Insulti omofobi che vediamo e che abbiamo visto anche in quegli stickers riproposti. Quindi il problema è molto più ampio e ci aspettiamo dei gesti concreti da parte delle società di calcio che si assumano questa responsabilità. Bisogna cacciare questa gente dagli stadi, e per cacciarla devono intervenire proprio le società. Sì, perché poi tra l'altro, La Rocca, me lo faccia dire tra l'altro da romanista, se i tifosi della Lazio distribuiscono delle figurine di questo genere, vuol dire che dall'altra parte c'è qualcuno che si sente offeso ad essere definito romanista ebreo, quindi è un problema che non riguarda solamente la tifoseria della Lazio. Guardi, entrare nella mentalità ultras è un discorso molto complesso. Io trovo che le istituzioni calcistiche spesso siano indietro col fenomeno, perché noi abbiamo sentito spesso banalizzare e dire ma sono pochi, ma sono sparuti. Bene, se sono pochi e sparuti, li cacciamo dagli stadi. Cioè, a questo punto è la Lazio a sapere, la Lazio, ma non solo la Lazio, attenzione, tutte le società, perché Juventus-Fiorentina... Noi sentiamo un coro odioso ormai da anni che la giustizia sportiva non comprende fino in fondo quanto sia grave, e viene permesso ai tifosi juventini allo Juventus Stadium di cantarlo continuamente, dove ci sono insulti omofobi, antisemiti, razzisti e misogini. C'è di tutto dentro quel coro. Ora, io non, ripeto, non vorrei focalizzare sulla Lazio, sì, ma vorrei allargare e dire che è un fenomeno che investe il mondo del calcio. E gli stadi sono considerati territorio franco, nonostante poi per andare allo stadio noi passiamo dei controlli che sono quelli che abitualmente abbiamo all'aeroporto piuttosto che nelle sedi governative. Della Rocca, non può funzionare più così. Della Rocca, il tema che c'è sotto e che lei sta lasciando sotto traccia, ma nemmeno troppo, è sempre il solito, mi sembra, il fatto che le società vivano in parte o del tutto una sorta di ricatto da parte di questi tifosi. Ma guardi, sembrerebbe evidente, ripeto, ma evidente solo osservandolo il fenomeno, è del tutto chiaro, perché poi lo vediamo dagli atteggiamenti. Ora, cosa sta succedendo rispetto alle volte scorse, per fortuna? Che c'è stata una seria mobilitazione di tutte le istituzioni. Quando il Presidente della Repubblica Mattarella interviene in un dibattito come questo e dichiara apertamente che bisogna farla finita con questi fenomeni, io credo che è intervenuto lui, la Presidente Boldrini, il Presidente Grasso, il Ministro Lotti. Sì. Abbiamo sentito finalmente tutte le voci in maniera chiara e distinta. E lo stesso Della Rocca, le aggiungo, e lo stesso Ministro Minniti, che in una telefonata con Mattarella avrebbe detto identificheremo i responsabili e faremo in modo che non entrino più allo stadio, mai più. Ha perfettamente ragione, con Mattarella abbinavo Minniti perché hanno loro conseguenza dell'altro, ha perfettamente ragione e fa bene a sottolinearlo. Guardi, noi abbiamo denunciato per anni questa cosa nella totale solitudine e ci sentivamo soli. Ora, se c'è un cambiamento di rotta finalmente, è che le istituzioni hanno compreso e capito, e non deve essere una lotta all'antisemitismo e basta, ma al razzismo tout court, non lo vogliamo più, mettiamo fuori questa gente dagli stadi, il DASPO lo danno le società di calcio, basta, non fanno più abbonamenti a questa gente, non prendono più biglietti a questa gente se la vedrà in televisione perché non sanno stare al mondo, non sanno stare con i propri vicini, non sanno gustarci una partita di calcio e non sanno tifare, perché tifare significa tifare la propria squadra e non insultare una persona, un tifoso avversario in quanto definito ebreo, in quanto definito frocio, in quanto definito nero, mi perdoni il termine, ma l'hanno scritto sì, loro, sì. Non l'avrei mai utilizzato, non è mio costume, è mio uso, è mia abitudine, ma l'hanno utilizzato loro, basta, ne abbiamo le scatole piene. Grazie Ruben Della Rocca, vicepresidente della comunità ebraica di Roma, per essere stato con noi, la ringraziamo. Noi adesso abbiamo un servizio dedicato alla perquisizione della quale vi abbiamo in parte raccontato ieri, perché la notizia è arrivata in corsa mentre Effetto Giorno era in diretta, ed è la perquisizione sulla nave di Save the Children. Siamo andati a vedere come stanno andando le inchieste sulle ONG, in particolare quella di Catania, sentiamo. Prima le indagini contro la ONG tedesca Jugendrettel con il sequestro da agosto della loro nave Juventa, ora le perquisizioni alla nave di Save the Children. Ma cosa c'è di concreto contro le ONG che operano nel Mediterraneo? L'indagine della procura di Trapani sulla ONG tedesca è per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, ma quando il 10 maggio scorso il procuratore di Trapani Ambrogio Cartosio è stato ascoltato dalla commissione di indagine del Senato sulle operazioni di soccorso, ha ridimensionato i rumors che si facevano intorno alla sua stessa indagine. La procura di Trapani ha in corso indagini che coinvolgono non le ONG come tali, ma soggetti appartenenti alle ONG. Anche nel caso delle perquisizioni di ieri alla nave di Save the Children indaga la procura di Trapani. Per quanto riguarda invece la procura di Catania, il cui procuratore Zuccaro nello scorso febbraio ha dato il via libera all'offensiva contro le ONG con alcune dichiarazioni, in realtà non si è andati oltre l'indagine conoscitiva e nessuno è stato iscritto sul registro degli indagati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati tra un attimo, poi ci ritroviamo e torneremo sulla questione delle occupazioni abusive a Roma. Come vi dicevo poco fa, è in corso questo processo che si arricchisce ogni giorno di nuovi particolari ed è un processo che ha a che fare con delle presunte estorsioni messe in atto da una leader in particolare dei movimenti per la casa e che avrebbe preteso un pagamento per le occupazioni stesse. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. Una notizia appena battuta dalle agenzie, innanzitutto il fatto che il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni ha chiesto al presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini di unificare i tavoli di trattativa per l'autonomia, intanto fa discutere lo scontro su Zaia che vorrebbe l'autonomia speciale, per intenderci come quella del Friuli Venezia Giulia o delle regioni autonome di Trento e Bolzano. Via dagli stadi, i responsabili degli insulti antisemiti, dice Minniti dopo le figurine con il volto di Anna Frank, lottito in visita alla sinagoga. La Lazio giocherà domani con una maglia in ricordo della deportata uccisa nel 45. Aumenta di 5 mesi l'aspettativa di vita nel 2019 in pensione a 67 anni. Padoan, l'economia potrebbe crescere fino al 2% quest'anno. Il vento riesce nell'intento di ripulire l'aria della regione Lombardia e di tutta la pianura padana. Saltano le nuove limitazioni alla circolazione che erano previste. Venerdì comunque sciopero dei mezzi. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ve l'avevo detto che sarebbe stato un tema che avremmo seguito parecchio ed è la questione delle occupazioni abusive a Roma. Come abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi e nelle settimane scorse, si tratta di una cifra tra le 10 e le 12 mila persone che occupano abusivamente delle abitazioni a Roma o dei palazzi a Roma, Vi abbiamo raccontato anche come in alcuni casi ai proprietari di questi palazzi sia stata proposta la seguente soluzione. Facciamo sgomberare l'immobile che è di tua proprietà, però alla sistemazione delle persone che ci sono dentro ci devi pensare tu con i tuoi soldi, proprietario appunto dell'immobile. Questo nei casi ovviamente nei quali il comune non abbia i denari per intervenire. Nel frattempo, e anche di questa vicenda ci eravamo occupati ma ci vogliamo tornare perché stanno emergendo nuovi dettagli, c'è tutta una questione giudiziaria che riguarda le occupazioni e riguarda in particolare i movimenti per la casa, perché il racconto che sta emergendo dalle aule di giustizia, non c'è ancora sentenza, quindi per carità, insomma, rimaniamo qua in attesa, riguarda la leader dei movimenti per la casa, o a questo punto forse la ex leader dei movimenti per la casa, il processo che la riguarda, un processo nel quale è accusata di associazione a delinquere a scopo di estorsione. In sostanza si parla di richieste di denaro e non solo di denaro, perché le persone che ne avevano bisogno fosse consentito da questa persona, leader dei movimenti per la casa, di occupare un'abitazione. Se ne sta occupando e parecchio Adelaide Pierucci, che è giornalista del Messaggero, che spesso si occupa di giudiziaria. Adelaide, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni. Allora, le ultime quali sono da questo processo? Perché oggi abbiamo visto un titolo sul vostro quotidiano: racket delle occupazioni, pretendevano 1.000 euro e usavano donne incinta. Che cosa vuol dire? Ieri c'è stata una udienza, appunto, come dicevi, che sempre sulla questione occupazioni, che riguardava la regina delle occupazioni, che è Giuseppa Vitale, ossia Pina Vitale, ha diversi procedimenti in corso. E in due in particolare si contesta appunto l'associazione a delinquere. È stata sentita una delle occupanti. Una donna marocchina di 60 anni che ha raccontato questo aiuto che ha avuto dai movimenti, però ha raccontato soprattutto il travaglio, tant'è che a distanza di anni ha pianto più volte durante la deposizione. Si parla di prestazioni in ogni senso, cioè gli venivano chiesto denaro, la partecipazione quasi coatta a partecipare alle occupazioni, infatti lei stessa ha partecipato a più occupazioni, la prestazione anche insomma, gli veniva richiesto per esempio di andare a pulire gratuitamente, a fare le pulizie gratuitamente in altri edifici occupati, oppure gli veniva ordinato di cucinare piatti arabi e fornire altri palazzi occupati dove c'erano tra l'altro anche pagamenti, lavoro e la richiesta di partecipare alle occupazioni delle case. Gli veniva detto ci vediamo alla talora, sì. E poi loro davano il via. Una volta che ha detto tagliavano il lucchetto, gli diceva adesso andate di corsa, e di corsa dovevano occupare. Se poi l'occupazione saltava, gli veniva ridato l'appuntamento subito dopo, diciamo, nella centrale operativa loro, che era una scuola occupata in via della Caccia a Roma. E poi vi veniva fornita la data successiva, quindi della nuova occupazione. La signora, da quello che ho capito, la quarta occupazione, poi dopo aver versato queste 1.000 euro, praticamente ha avuto diritto a una stanza che credo sia un'aula di una scuola che era in disuso, che avevano occupato, e praticamente poi dopo ha dovuto versare più di 800 euro per l'allaccio in fogna, 1.300 per allestire, cioè per sistemare un po' un cuscinotto e il bagnetto, più lei ha detto che ogni mese devono dare un fondo cassa di prima di 10 poi di 20 euro, ma che possono diventare 100. Tutto tant'è questo nell'aula di una scuola, cioè, questo qui sì. Ricordiamo, no, lei non ce la faceva. Allora, allaccio fogna 800 euro, 1.300 euro per i lavori nella stanza per il bagno e la cucina, altri 700 per lo scaldabagno, e tutto questo era un'aula scolastica. Più 100 euro al mese più le prestazioni gratuite, diciamo, qua e là, insomma, dove veniva richiesto. E la cosa che lei ha ricordato in maniera forse più commovente di tutto è il fatto che i promotori del comitato, sì, avevano accesso a queste stanze aule e praticamente facevano la spesa gratis, spesso e volentieri. Da una parte prendevano l'olio, da una parte le patate, da una parte le pacchi, cioè, di entravano, pasta, entravano nelle stanze occupate, sì, cioè i leader del movimento entravano nelle stanze occupate e prendevano dalle aiutanti del leader, o gli aiutanti prendevano dalle stanze quello che volevano, sostanzialmente, sì, come sì, e prendevano quello che volevano e con quello e cucinavano e mangiavano insieme in palestra. Lei così ha specificato, diciamo, questo è il racconto di lei, ecco, sì, noi abbiamo riportato il racconto di lei. Questo è uno dei tanti racconti che stanno emergendo da questo processo, che quando si dovrebbe concludere, Adelaide, giusto per avere un'idea? Diciamo adesso stanno ancora sentendo i test della difesa, penso che ci vorranno almeno altri 6 mesi. Almeno altri 6 mesi per avere dettagli su questo processo, quantomeno una prima conclusione di questo processo, vedremo come andrà a finire, sicuramente ci torneremo su questa vicenda. Grazie Adelaide Pierucci del Messaggero, noi ci fermiamo, traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.